ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Un transistor stampato su carta. Buonasera, benvenuti a Smart City. Lo hanno messo a punto e descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Communication un gruppo di ricercatori dell'Università di Pisa insieme a colleghi dell'Università di Manchester, dell'IIT, Istituto Italiano di Tecnologia, e altri colleghi ancora della Vienna University of Technology. Il transistor, ricordo a tutti, è il componente fondamentale dell'elettronica ed è quindi la premessa per poter realizzare circuiti elettronici di ogni tipo. Questo transistor stampato su carta è frutto di due progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea. Il primo fu un ERC Consolidator Grant, uno diciamo dei finanziamenti più prestigiosi che l'Unione Europea riconosce. E il secondo invece un progetto Horizon 2020, il progetto WASP. Entrambi questi progetti sono stati coordinati da Gianluca Fiori, docente di elettronica al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, che naturalmente è in linea con noi. Buonasera Fiori. Buonasera. Allora, la prima cosa che vorrei che lei ci spiegasse è come funziona questo processo di stampa. Cosa si intende quando si dice che si stampa un transistor su carta? Allora, noi utilizziamo due tecniche per realizzare questi transistor su carta. La prima, che è stata sviluppata da VIT e dell'Università di Vienna, è il trasferimento di materiali bidimensionali come il solfuro di bisolfuro di molibdeno da un substrato rigido a un substrato cartaceo. E poi dopo, attraverso la tecnica di stampa, una comune stampa a getto di inchiostro, siamo riusciti a stampare altri materiali, come per esempio materiali conduttivi come l'argento, oppure materiali isolanti come il boron nitride, realizzati e sviluppati dall'Università di Manchester. Abbiamo realizzato infine questo transistor, il transistor finale. Quindi parliamo di un processo che prevede l'utilizzo fondamentalmente delle stampanti a getto d'inchiostro, per capirsi, che depositano, diciamo, degli speciali inchiostri che contengono questi materiali di cui lei ci parlava. Sì, chiaramente questi sono macchinari, diciamo, specializzati, certo, in laboratorio. Non sono esattamente quella che abbiamo a casa, beh, certo. Sì, però il principio è molto simile, no? Il principio direi che è esattamente lo stesso, solo che queste stampanti riescono a stampare delle gocce di volume veramente piccolo, dell'ordine del picolitro, e questo ci permette di ottenere delle strutture veramente precise, come è necessario per la realizzazione di transistori. L'altra differenza rispetto alle stampanti, diciamo così, d'ufficio è che le stampanti a getto d'inchiostro stampano dei liquidi che servono per colorare la carta. Qui invece si tratta proprio di dispositivi che stampano materiali. Quali sono le applicazioni che si possono immaginare più che per dei transistor, proprio per dei circuiti stampati su carta? Allora, il transistor, come diceva lei, è l'elemento fondamentale per realizzare i circuiti elettronici. Quindi quello che abbiamo fatto noi è stato un primo passo verso la realizzazione di circuiti più complessi. Chiaramente una volta che siamo in grado di fabbricare il singolo transistor, poi il passo successivo è quello di combinare, mettere in relazione i vari transistori per ottenere circuiti complessi che poi alla fine sperabilmente saranno in grado di realizzare delle funzionalità e delle applicazioni che spaziano dalle applicazioni più disparate, per esempio applicazioni di tipo biomedico, come per esempio dei sensori indossabili, usa e getta, che facciano delle analisi per esempio sul sangue, estraendo per esempio anche delle informazioni relative al pH, al glucosio e così via, oppure applicazioni come vengono chiamate di smart packaging, cioè delle etichette da applicare per esempio al prodotto che forniscono le informazioni sul prodotto stesso oppure sulla storia del prodotto, per esempio se applicato a cibo, per esempio, o a sostanze degradabili, ci danno informazioni sulla storia che hanno vissuto, a che temperature sono state sottoposte e se c'è per esempio il pericolo che queste siano state degradate irreparabilmente. In generale, un aspetto che mi sembra molto interessante è che nel momento in cui si utilizza una procedura di stampa del tipo di cui stavamo parlando, c'è un'ampia possibilità, diciamo, di personalizzare i circuiti, perché tanto la stampante, che debba stamparne 100 uguali o 100 diversi, impiega allo stesso tempo. Sì, questo ha sottolineato effettivamente un aspetto molto importante, nel senso che la tecnologia che uno potrebbe realizzare è una tecnologia, come si dice, customizzabile. In sostanza uno potrebbe pensare di poter, in un futuro speriamo non troppo lontano, poter realizzare dei circuiti in casa secondo le esigenze dell'end user, dell'utilizzatore finale. Senta, quali sono i limiti di questo tipo di elettronica? È paragonabile come prestazioni all'elettronica a base silicio, quella che abbiamo dentro nei nostri computer, per capirsi? No, purtroppo siamo ancora ben lontani dalle prestazioni della tecnologia mainstream, quella del silicio, soprattutto in termini di velocità, certo, e anche in termini di numero di transistori che uno riesce a fabbricare. Di miniaturizzazione, diciamo, è molto più miniaturizzato. Ecco, questo solo per dire che magari ci potremo stampare a casa dei circuiti, ma non ci potremo stampare a casa un laptop, giusto per essere, per essere chiari. Va bene, allora grazie Gianluca Fiori e avanti così. Grazie, arrivederci a tutti. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento a lunedì. Buon fine settimana. Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.